Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata in cui avremo la nostra poco invidiabile classifica. Sospiro perché oggi insomma la classifica sembra la potrebbe fare quasi la cronaca, e mi riferisco da un lato alla vicenda romana e agli ulteriori sviluppi, e quindi Marra e ieri giusto l'assessore Muraro, e anche la vicenda milanese. Sono due vicende molto diverse, faccio notare che appunto poi ne parleremo. Sara si è autosospeso in attesa di capire quali siano vengano chiarite le accuse. Il caso è quello della piastra, cioè la base su cui è stato costruito l'Expo nel 2015 ed era l'appalto più ingente delle esposizioni. Da quello che si capisce, a carico del sindaco Sara vi sarebbe il reato di concorso in falso materiale e falso ideologico, commesso il 30 maggio 2012. Tra l'altro la Procura Generale un mese fa aveva tolto il fascicolo alla Procura della Repubblica, non condividendo la richiesta di archiviare anche le uniche cinque posizioni minori che erano state scritte tra gli indagati. E va bene. E poi abbiamo invece il fronte romano, dove ci sono cinque capi di imputazione contestati dall'assessore dimissionario del Comune di Roma Paola Muraro, con riferimento, come abbiamo avuto per molte modo di dire, lì il problema, adesso non conosciamo ovviamente le indagini della magistratura, era di opportunità se tenere come assessore all'ambiente una persona che aveva collaborato così a lungo con il re delle discariche romane, e mi riferisco a Cerroni, ma soprattutto tra l'altro c'era tutto il tema del tritovagliatore di Rocca Cencio di proprietà di Cerroni, e soprattutto anche perché nei rapporti tra l'ex direttore generale dell'AMA Giovanni Fiscon e Paolo Muraro, al tempo consulente in campo giudiziario, la Muraro in quegli anni aveva ottenuto oltre 1.200.000 euro in 12 anni dall'AMA come consulenza, e sappiamo che Fiscon poi in questo è rientrato. Però da questo punto di vista, oltre ai cinque capi di imputazione per la Muraro, e appunto con riferimento all'epoca in cui era consulente dell'AMA, la municipalizzata di Roma, sui rifiuti, e quindi reati ambientali con altri quattro responsabili all'epoca dei fatti di singole parate di impianti, appunto del tritovagliatore di Rocca Cencia e in via Salaria. Oggi registriamo, come molti di voi già sanno, il mea culpa del sindaco Raggi su Marra ho sbagliato ma vado avanti. E poi l'arresto, insomma, sia dell'immobilista Sergio Scarpellini che appunto di Marra. Anche su Marra molto si era detto. Devo dire la verità, ci sono alcune dichiarazioni della Raggi che obiettivamente lasciano sorpresi, perché dire che si trattava di uno dei 13.000 dipendenti del Comune di Roma è una risposta che non ha nessun senso. Mi chiedo chi scriva i comunicati alla Raggi. Comunque ce ne occuperemo tra un attimo. Poi, come sempre, la nostra poco invidiabile classifica, che oggi viene quasi superata dai fatti. E poi, come sempre, anche Borsa e il vicenda Monte dei Paschi. Ieri è arrivato in serata, in nottata quasi, il via libera della Consob alla conversione anche per il pubblico retail, quindi per i risparmiatori, delle obbligazioni subordinate del Monte dei Paschi. Teoricamente sono 40.000, ma bisogna capire poi quanti abbiano ancora queste obbligazioni in mano. Nell'informativa è scritto che questa è un'operazione volontaria, quindi hai tempo fino al 21 di dicembre, che è un tempo brevissimo, per andare a convertire e dare la tua disponibilità affinché vengano convertite in azioni queste obbligazioni subordinate. Però se dovesse intervenire il governo, vi sarebbe poi la possibilità di renderla forzosa come conversione. E anche di questo parleremo. Il titolo Monte dei Paschi oggi perde il 3,60%, mentre, visto che parliamo di borse, il miglior titolo è Ferragamo più 3,08% e Steam Microelectronics più 2%, Saipem più 2, Recordati più 1,60% come Generali, Pop Milano più 1,20%, Telecom più 1%, il fronte opposto invece Snam meno 1,60%, Intesa meno 1,30% come Prismian ed Enel, Finecobank meno 1,20% come Luxottica, Buzzi Unicem e Mediobanca. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, come sempre, dall'economia internazionale partiamo e oggi la Cina, tra l'altro notizia che dà anche lo scenario economico a livello mondiale, restituisce al Giappone il ruolo di primo creditore degli Stati Uniti e quindi il primo creditore nei confronti degli Stati Uniti non è più la Cina, dove le obbligazioni americane sono scese nel portafoglio di Pechino di 41 miliardi di dollari, una quota ancora enorme, 1120 miliardi di debito americano in mano cinese, ma il Giappone ha superato la Cina, 1130 miliardi. Allora, una volta avevamo la rubrica del gufo che poi abbiamo sospeso perché ci ha rubato, diciamo, il copyright l'ex presidente del Consiglio Renzi, ma l'avremmo data oggi volentieri a Clement Fuest, penso che si pronunci così, è il presidente dell'Istituto di Ricerca Economica Tedesca IFO ed ex consulente del Ministero delle Finanze di Berlino, che in un'intervista oggi sostiene che anche l'Italia dovrebbe uscire dall'euro se la moneta unica è un ostacolo che impedisce di tornare a livelli soddisfacenti di crescita, nonostante i miglioramenti della competitività e riforme. Ma la cosa per cui gli daremmo il gufo è un'altra, perché lui dice la liquidità sta lasciando l'Italia, i venditori esteri di titoli di Stato italiani alla Banca d'Italia potrebbero comprare altro nel vostro paese, ma non lo fanno. Io questa la chiamo una fuga di capitali. Beh, insomma, la chiama lei una fuga di capitali. E andiamo avanti invece con il referendum che già sta facendo molto discutere avremo la decisione della consulta a gennaio sull'ammissibilità del referendum chiesto dai sindacati sul Jobs Act, sulla riforma del mercato del lavoro fatta da Matteo Renzi. Ieri il Presidente del Consiglio Gentiloni a Bruxelles ha detto: non abbiamo nessuna intenzione di cambiare linea sull'articolo 18 e sul Jobs Act. Non abbiamo nessunissima intenzione di cambiare linea sull'articolo 18, Jobs Act. Tutto è perfettibile, ma io considero, anche alla luce dei risultati, la riforma del lavoro che abbiamo fatto come uno dei risultati importanti da difendere del nostro governo. E sempre sul Jobs Act, oggi, come immaginabile, perché il ministro Padoan era ministro anche del governo Renzi, difende il Jobs Act, ha detto: il mercato del lavoro è migliorato, l'economia è ripresa da quasi 3 anni dopo una grande recessione. L'economia italiana sta facendo progressi, è in ripresa da quasi 3 anni dopo una recessione senza precedenti. Il mercato del lavoro continua a migliorare grazie a misure di sostegno e riforme che hanno inciso sul suo funzionamento profondo. La strategia di politica economica del governo, in continuità con quella del governo precedente, sostiene gli investimenti pubblici e privati attraverso le riforme strutturali e la riduzione delle tasse. Nella politica economica del governo c'è però un'altra faccia della medaglia, volta ad aggredire i problemi del Mezzogiorno, la povertà, la riduzione di opportunità soprattutto per i più giovani. Occorre rafforzare le misure volte ad accrescere l'inclusione e ridurre la diseguaglianza. La legge di bilancio approvata da poco dal Parlamento risponde a queste priorità. Nell'immediato futuro occorre dare piena attuazione alle misure della legge di bilancio e valutare ulteriori misure per la crescita e l'occupazione in un contesto di sostenibilità della finanza pubblica e di rispetto degli impegni europei. Allora, andiamo avanti per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria. Michele, dell'euro è sempre debole sul dollaro dopo la decisione della Federal Reserve a 1,04. Parleremo di Mediaset e di Vivendi più avanti, perché anche oggi sviluppi, Fininvest sta pensando a sequestrare le azioni di Vivendi, c'è un consiglio di amministrazione di Mediaset annunciato per martedì prossimo. Da questo punto di vista il titolo si sta comportando, resta sempre su un livello superiore, non è più così forte come il giorno dell'annuncio, però resta intorno ai 3,50€, oggi cala dello 0,40%, ma 3,55€. E poi un incontro che si è tenuto oggi tra il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che per primo intervenne sulla vicenda, e il numero uno di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, a Roma. De Puyfontaine era a Roma per partecipare al consiglio di amministrazione di Telecom Italia, di cui appunto Vivendi è l'azionista di riferimento con il 24%. Nessun incontro invece con il primo ministro Gentiloni, smentito l'incontro. E poi ascolteremo più avanti, quando affronteremo il tema, anche le dichiarazioni dello stesso Gentiloni sulla vicenda. Hollande, che ha smentito di avere mai parlato con il nostro presidente del consiglio, trattasi di una vicenda, di un'operazione puramente privata. E su questo, a dire il vero, andiamo subito su questo tema, così poi non lo teniamo sospeso, visto che abbiamo anche il Monte dei Paschi. Allora, la situazione è, a chi me lo chiede, di stallo, perché resta l'ipotesi, però è, in questo caso è un processo alle intenzioni, cioè la GCOM ha detto, l'autority sulle telecomunicazioni ha detto, che se vi fosse un controllo unico tra Telecom e Mediaset, beh, a quel punto si creerebbe un problema, perché Telecom risulta il principale operatore del mercato delle comunicazioni elettroniche con il 44,7% del mercato prevalente, Mediaset raggiunge il 13% nel suo mercato. Questi dati evidenziano che operazioni volte a concentrare il controllo delle due società in capo a Vivendi potrebbero essere vietate, però adesso questa operazione è tutt'altro che è stata annunciata, noi la continuiamo a ipotizzare come prospettiva industriale, cioè per cercare di capire perché Bolloré si è salito al 20%, ma non è che l'operazione è stata annunciata. La GCOM ha fatto notare che se vi dovesse essere un controllo duplice su Mediaset e su Telecom, beh, potrebbe essere vietata. E dicevo che il presidente francese François Hollande ha spiegato di non avere mai parlato del caso Vivendi Mediaset con il nostro presidente del consiglio Gentiloni, tra l'altro ha detto, insomma, lo stesso Gentiloni dice sostanzialmente: mi sono occupato di Telecom, però insomma, i due tendono a gettare acqua sul fuoco. Considerare naturalmente un settore importante non significa, a meno che non sia uno di quei casi in cui si possa esercitare la golden share, per così dire, non significa interferire, no? Significa seguire con vigile attenzione la vicenda, perché sappiamo che sia le reti di telecomunicazione che le grandi strutture di informazione sono in un paese molto, molto importanti. Detto questo, il gruppo Mediaset aveva una delle più importanti reti televisive in Francia, quindi non è che ci sia di per sé un divieto. Bisogna vedere le interpretazioni delle leggi, non spetta certo al governo darle, però ritenere che è molto importante per il paese credo che sia una banalità assolutamente ovvia. Non ne ho parlato con Hollande perché non credo che il finanziere bretone sia un commis d'état francese. Andiamo ancora con qualche notizia in breve su Monte dei Paschi, ripeto, ne parleremo più avanti. Comunque la situazione oggi ha fatto sapere la Banca Centrale Europea che il Monte dei Paschi ha una liquidità che è scesa ormai a 29 giorni, praticamente a meno di un mese di autonomia, se non porta a casa, diciamo, anche l'aumento di capitale. Persi altri 6 miliardi di raccolta da parte del Monte dei Paschi, e quindi 20 miliardi quasi nel 2016, ma è chiaro, insomma, quando tu tieni in sospesa, e qui c'è una responsabilità, l'abbiamo detto molte volte, anche diretta del Presidente del Consiglio, che insomma dell'ex Presidente del Consiglio, che ha gestito la vicenda convinto che tutto si sarebbe risolto, poi facendo intervenire JP Morgan, ma arrivando agli ultimi, agli sgoccioli, con il referendum in mezzo. Ma dicevamo, è chiaro che quando tu senti parlare in questo modo del Monte dei Paschi di Siena, da tutto l'anno hai un'emorragia di depositi. 2 miliardi sono usciti dopo il referendum, dal 4 dicembre. Complessivamente la raccolta è calata di 20 miliardi nel 2016. Nel frattempo la trasformazione in SPA delle banche popolari è sospesa fino al 12 gennaio. Questo si capisce dal testo del decreto monocratico del Consiglio di Stato, che ha accolto l'istanza della Popolare di Sondrio, perché dice, attenzione, fino al 12 gennaio, quando verrà decisa sull'istanza arrivata alla Popolare di Sondrio, la trasformazione è da ritenersi sospesa. Tra l'altro anche la Banca Popolare di Bari valuterà nei prossimi giorni il rinvio dell'assemblea degli azionisti sulla trasformazione in SPA, mentre ieri sono state effettuate perquisizioni nella sede legale e amministrativa della Banca Popolare di Bari. La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Bari, sta acquisendo documentazione finalizzata ad accertare talune apparenti irregolarità. Il reato ipotizzato dalla magistratura barese sarebbe ostacolo alle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza. Ancora due notizie, poi andiamo sul traffico, o meglio, scusatemi, il meteo e la pubblicità, e poi partiamo con la poco invidiabile classifica. Per quello che riguarda il commercio con l'estero, i dati sono di ottobre, sono in leggero calo rispetto all'ottobre 2015, sono stazionari rispetto a settembre, le importazioni più 2,7%, le destinazioni del nostro export sono calate un po' dovunque a ottobre, meno 2%, riferito sempre all'ottobre di un anno prima, meno 2% in Germania, meno 3,6% in Gran Bretagna, meno 3,6% in Francia, scusate, meno 6% l'export in Gran Bretagna, meno 16% verso la Turchia, meno 12% verso la Russia, meno 2% verso gli Stati Uniti. C'è invece un segno più sui paesi OPEC, più 1,7%, su Cina più 9%, su Giappone più 7,5%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul meteo e poi inizia la classifica, che partirà chiaramente anche ricordando le vicende Milano e Roma. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, dicevo, oggi la classifica è quasi superata, anzi è superata dalla cronaca. Devo dare alcune precisazioni. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, mi scrive un ascoltatore, indagato per storie di tangenti durante Expo. No, guardi, non lo sappiamo, vorremmo saperlo anche noi. Ripeto, stavo citando prima l'ipotesi, ma Sala si è autosospeso perché vuole capire esattamente quali siano le accuse a suo carico. Dopodiché su questo va dato quantomeno atto che si è autosospeso fino al chiarimento delle accuse. Adesso si ipotizza reato di concorso in falso materiale e falso ideologico. Guardi che le tangenti non contano nulla, io lo dico perché qua Per quanto riguarda la Raggi, spero faccia tesoro di questa esperienza. È Muraro. Dunque, poi mi chiedete se avessero arrestato invece gli assessori di Sale, non della Raggi, se avremmo chiesto io non ho mai chiesto l'autosospensione del sindaco Raggi. Abbiamo solo detto che per mesi, nonostante, diciamo, vedete, il problema è che siamo tutti uguali, ok? Non ci sono persone che hanno la verità rivelata in tasca. Lo dico con molto affetto anche ad alcuni esponenti del Movimento Grillino, che ogni volta che tocca loro sembra sempre che... E no. Allora, abbiamo detto per mesi perché il sindaco Muraro con... scusatemi, l'assessore Muraro con il sindaco Raggi fa fuori il direttore generale dell'ATAC, Rettighieri, che aveva operato bene stanti i numeri che ci aveva portato, ossia riduzione dei furti, 10 milioni in meno, riduzione dell'usura dei pneumatici in un ATAC che è ostaggio anche dei sindacati che gestiscono pure il dopolavoro, le mense, le macchinette per le merendine. Si diceva, ma ha senso che la Muraro, per 10 anni consulente di AMA, di Fiscon, finito nell'indagine per mafia capitale, con i rapporti stretti con il re delle discariche Cerroni, da cui è avuto da AMA oltre 10 milioni di consulenze in quegli anni, resti in una situazione così chiave, visto l'intreccio tra gestione privata dei rifiuti romani e quello che stavano cercando di fare gli allora direttori di AMA? Ha un senso? Ci siamo posti le domande. Poi, voglio dire, su Marra, adesso io mi sono permesso di dire, chi scrive i testi al sindaco di Roma, perché dire che è uno dei 13.000 dipendenti non vuol dire nulla, abbiate pazienza, così come dire sostanzialmente che si è sbagliata, è mesi che viene fatto notare la posizione di Marra, ho sbagliato ma vado avanti, va bene. Dopodiché, tra l'altro, i motivi, insomma, del GIP non sono esattamente quelli che scrivono alcuni ascoltatori. Il GIP scrive: sussiste un concreto attuale pericolo di reiterazione di condotte delittuose da parte di Marra, in considerazione del ruolo in concreto attualmente rivestito nel Comune di Roma, dell'indubbia fiducia di cui gode da parte del sindaco Virginia Raggi, e vi è il concreto pericolo che Marra e Scarpellini, altro arrestato, commettano, il mio guadagnista Sergio Scarpellini, commettano altri gravi delitti, perché i fatti contestati denotano la loro spiccata pericolosità sociale. Questo scrive il GIP Maria Paola Tommaselli nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere Marra e Scarpellini, ok? Marra, in un'intercettazione telefonica, temeva di essere rimosso dal capo di gabinetto e dice: io stavo organizzando tutto, ora mi fai fuori dall'uomo più potente in 3 giorni, divento l'ultimo co. Comunque, le valutazioni politiche del sindaco Raggi le farà il sindaco Raggi, punto e basta. Io noto che Sala a Milano, per essere stato indagato, si è autosospeso. Noto che arrestano, prima arriva un avviso di garanzia all'assessore Muraro, arrestano e sbattono in carcere Marra con le motivazioni che ho detto, e il sindaco Virginia Raggi dice semplicemente: mi sono sbagliata, punto. Poi ognuno può trarre le valutazioni che vuole sui diversi comportamenti, va bene? Senza paraocchi. Va bene, andiamo avanti con la classifica, che è meglio. Oggi non metteremo nella classifica, lo dico subito, per pietà, la vicenda che riguarda, vorrei un momento di anche così di solidarietà umana, la capogruppo del PD in Regione Veneto, Alessandra Moretti, perché noi mettiamo in classifica sprechi, devo dire, però Moretti, ma insomma, visto che lei è capogruppo del PD in Regione Veneto, si faccia dire che peso il tacon del buso, ma insomma, lei scrive che non può partecipare alla discussione sulla legge di bilancio della Regione Veneto. Non è un dettaglio, per motivi di salute, che a casa mia sono una cosa seria, anche sul luogo di lavoro. Uno dice motivi di salute, no, Lady Like, immagino abbia realmente motivi di salute, no. Poi riesce a pubblicare sul suo account Instagram una foto che la ritrae sorridente con il terzo occhio di Hindu a Jaipur in India, e commentando un viaggio che apre gli occhi sul mondo. Si apre anche gli occhi su di lei a sto punto, se permette. Ora, ed era in India assieme all'assessore della sicurezza di Vicenza, Dario Rotondi, per partecipare ai festeggiamenti nuziali di George Sharma, noto imprenditore del settore orafo. Tutto giusto, tutto bene, è un amico, vai al suo matrimonio, ma perché devi dire che motivi di salute? Poi risponde: sono fuori città e ammalata da viaggio. No, scusa un attimo, cioè, se tu non potevi partecipare alla discussione sulla legge di bilancio per motivi di salute, non è che mi dici che poi ti sia sviluppata, non so, la vendetta di Montezuma una volta che eri in India. Non saresti comunque riuscita ad andare in consiglio regionale, no? Sulla legge di bilancio della regione Veneto, un dettaglio. E poi scrive sul Fatto Quotidiano: vale più una settimana in India che un anno a palazzo. E allora restaci, la battuta però è automatica, con massimo rispetto per Alessandra Moretti. Poi ha affermato di aver davvero accusato un malore, poi conclude: ma insomma non capisco tutta questa attenzione nei confronti di questa vicenda, mi sembra surreale. No, Moretti, a noi sembra surreale la vicenda, non l'attenzione alla vicenda. Tra l'altro anche in India ho avuto dei problemi di salute, come gli altri che erano con me. Abbiamo capito, vi siete presi quella che magari si chiama, non posso dire, insomma, la sciolta, quella nuova legge. Però il problema è che lei ha scritto che non poteva partecipare alla legge di bilancio perché era malata. Moretti, su, peso il tacco del buso. Apriremo una rubrica anche su questo. A chi ci chiede quando lanceremo la rubrica invece sulle balle della rete, della post verità, lo faremo a questo punto nel 2017. Andiamo avanti, dai. Allora, io non vorrei essere Cantone in questo periodo della mia vita, perché qualunque cosa in questo paese capiti, tutti vanno da Cantone. Allora, che è successo? Io vi vorrei, concentrare l'attenzione su quello che è la situazione alla motorizzazione civile di Napoli. Voi vi chiederete: quanti sono alla motorizzazione civile di Napoli i dipendenti che non hanno guai con la giustizia? O meglio, uno dovrebbe dire che hanno guai con la giustizia. Uno su 100? Uno su 1000? No, sono il 60%, cioè su 10 dipendenti solo 4 non hanno un casello giudiziario normale. E questo lo scrive lo stesso ufficio di Napoli, che dice: situazione del personale in servizio presso l'ufficio motorizzazione, gravissima situazione, riporta l'elenco di tutto il personale che vi presta servizio. Allora, in giallo sono evidenziati i dipendenti che hanno procedimenti disciplinari penali recenti, in verde quelli che sono stati oggetto di procedimenti disciplinari penali chiusi, in azzurro i dipendenti che hanno procedimenti disciplinari penali aperti o sospesi da molto tempo, in rosso i dipendenti segnalati da esposti denunce pervenute all'amministrazione, e in bianco gli altri, stavano finendo i colori. Comunque, solo il 40% del personale in servizio risulta ad oggi privo di qualsiasi pendenza o denuncia. Purtroppo questo dossier, che risale ad agosto, firmato dal capo del personale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Alberto Chiovelli, destinato a due dirigenti interni, è finito anche all'ANAC, quindi a Cantone. E 9 pagine più allegati che raccontano un ufficio, quello della motorizzazione civile di Napoli, dove, insomma, nonostante le varie azioni intraprese e le indagini, continuano a essere commesse irregolarità. E tra l'altro vi tralascio tutte le nuove disposizioni in materia di esami e patenti, centralizzazione della scelta degli esaminatori, implementazione del sistema informatico, ispezione sorpresa, tutte misure per evitare, insomma, la corruzione che aleggia. Il capo del personale del ministero dice che nonostante questo emergono ancora attività fraudolente dei dipendenti, numerosi esposti anonimi che segnalano al nuovo dirigente situazioni sul quale poi è necessario fare chiarezza. Si scopre tra l'altro che sul territorio campano sono in corso almeno 3 procedimenti giuridici che riguardano gli uffici della motorizzazione. I magistrati di Avellino stanno celebrando il processo per l'incidente dell'autobus che nel luglio 2013 finì giù da un viadotto e causò la morte di 40 persone. La revisione dell'autobus risultò falsa. E poi la procura a Caserta indaga le irregolarità negli esami delle patenti, da extracomunitari che avrebbero sostenuto test per la patente al posto di altri a funzionari che avrebbero suggerito le risposte o consentito l'uso del cellulare durante l'esame, o impiegati che avrebbero inserito per anni dati falsi di revisioni mai avvenute. Ma tutto normale. E restiamo in tema di motorizzazione civile, ma in questo caso di multe. Oh, tra il 2008 e il 2013, quindi non c'entra nulla il sindaco Raggi attuale, ok? Tra il 2008 e il 2013 l'ufficio contravvenzioni multe del comune, è un tema che mi sta particolarmente a cuore perché purtroppo tendo a prendere multe, L'ufficio contravvenzione del Comune di Roma ha annullato circa 80.000 multe, non 8, non 80, 80.000. Allora, è un numero impressionante che vale 6 milioni in meno di euro alle casse del Campidoglio. Dentro c'è di tutto, praticamente. Ci sono calciatori famosi nel passato e anche famosi adesso, attrici, un magistrato contabile, negozianti, società di autonoleggio. Praticamente il sostituto procuratore Francesco Dall'Olio dovrà stabilire se i 5 funzionari del Dipartimento Risorse Economiche finiti sotto inchiesta per reati che spaziano dall'abuso di ufficio alla truffa abbiano ricevuto denaro in cambio dei servigi. Insomma, il sospetto viene abbastanza forte, no? Pensate che il pacchetto dei servizi, diciamo, dentro il Comune di Roma in quegli anni prevedeva anche l'utilizzo di finti loghi di prefettura e forze dell'ordine. Ma è una roba da normale, no? Che ti metti in una finta paletta dei carabinieri, un finto logo della prefettura su una macchina. E poi richieste di discarico di vecchie cartelle esattoriali con gli stemmi dei commissariati Trevi, Campomarzio e San Giovanni, della stazione salaria dei carabinieri, tutta roba falsificata, e persino di Palazzo Valentini. In questo caso poi gli inquirenti ipotizzano l'esistenza di uno o più intermediari, con tutta probabilità poliziotti e militari dell'arma in pensione, disposti a intercedere presso l'ufficio contravvenzione del Campidoglio in cambio di poche decine di euro. E poi c'erano altre chiavi di accesso. Le procure di Piazzale Clodio, infatti, e di Viale Mazzini stanno lavorando anche su singoli casi di potenziali malati immaginari, però con una memoria di ferro, perché ad anni di distanza dalla contravvenzione, cioè io non mi ricordo delle volte a distanza di 2 mesi dove cavolo ho preso quella multa, perché cerco di capire perché, dov'ero, cosa stavo facendo. No, loro ad anni di distanza si ricordano, alcuni conducenti, che nel giorno di quella multa lì erano diretti in ospedale per un malore improvviso o proprio di un familiare. Una sfortuna, eh? Tra il 2008 e il 2013 era sufficiente dire questo per scardinare i varchi ZTL senza avere multe. Poi una dipendente ha deciso di parlare e in comune sono arrivate le fiamme gialle. Ricordo che a fine 2015 le perquisizioni sono scattate negli uffici di Viale Ostiense, poi nell'abitazione dei singoli funzionari, e è venuto fuori il bubbone. Un anno di indagini della Guardia di Finanza e tra l'altro, ripeto, c'è di tutto, c'è moltissimi VIP, c'è un super evasore, un automobilista che ha accumulato multe per 600.000 euro, tutte cancellate. Poi anche ristoranti importanti del centro storico che con i furgoni carichi di prelibatezze vanno a servire turisti e clienti, come multe per passaggi irregolari, tutto annullato. Con buona pace ovviamente di chi le multe se le ha beccate e ha pagato. Ecco perché in un verminaio qual è Roma è fondamentale che tu sia come la moglie di Cesare, lo diciamo con molta modestia al sindaco Raggi, che la Muraro e Marra, con tutti i sospetti che aleggiavano prima ancora che intervenisse la magistratura, non erano opportuni, ma solo un problema di opportunità. È un verminaio, non ti puoi tenere dentro uno che è stato capo di gabinetto con gli ultimi sindaci, e quindi sto verminaio quantomeno lo conosce, e una che ha fatto la consulente per uno degli elementi forti di questo verminaio che si chiama gestione dei rifiuti a Roma. È un problema almeno di opportunità, lo si può dire, o siccome sono grillini non gli si può dire mai nulla. Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta per le ultime 3 posizioni della classifica. Una nota: guardate che non abbiamo mai detto che il problema sia la Raggi. Abbiamo valutato le ultime mosse della Raggi. Abbiamo attaccato Marino negli ultimi 2 anni, Alemanno prima. Abbiamo anche chiesto scusa a Cota per la vicenda delle mutande verdi, perché gli avevamo fatto a proposito di mutande, come un paiolo. Per cui voglio dire, attenzione, non è vero. Il problema è che quando citi un grillino sembra che tu ce l'abbia condotto, ma non è vero. Adesso sto per elencare al terzo, secondo e primo posto cose che non c'entrano nulla con Roma, quindi non fate le vittime, per favore. Il problema è che se ha sbagliato delle nomine, ha sbagliato delle nomine, fine. E se gli era stato detto, gli era stato detto per mesi, attenzione che non sono così trasparenti, forse non è opportuno, gliel'ha detto anche Grillo, è su. Allora, ok, Nel senso che attenzione ai giacobinismi, cioè che chi è tutto il bene sta da una parte, tutto il male sta dall'altra. Io non sto dicendo che tutti abbiano la rogna, dico solo che però ogni tanto si può criticare, come critichiamo la Sicilia, critichiamo Roma, critichiamo Milano. Infatti andiamo a Milano, dove c'è il Pirellone, che voglio dire deve mettere un ritratto di Stakhanov, che era il famoso laboratore della Russia, di Stalin, dell'Unione Sovietica. Deve mettere un ritratto di Stakhanov in aula Magni, in aula consigliare. Perché? Perché lavora, quest'anno lavorerà il Pirellone a Milano, la regione Lombardia, il 30% in meno rispetto al 2015, che non è male, ossia le sedute sono il 30% in meno. Praticamente ha terminato i lavori e si riunirà fino alla prossima volta, mercoledì 21 dicembre, per approvare il bilancio. Comunque, l'ultima seduta si è tenuta il 6 dicembre, 29 sedute quest'anno contro 45 l'anno scorso, fa un terzo in meno. I lavori riprenderanno il 10 gennaio dopo una pausa forzata di 19 giorni. Tutta la nostra solidarietà, solo per discutere di mozioni, interrogazioni e interpellanze. Si arriverà il 24 gennaio, quando il Pirellone affronterà un progetto di legge, finalmente, sul collocamento dei cartelli stradali. Poi c'è l'atteso testo sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo, fermo da mesi nelle commissioni consiliari. Il fattore famiglia è in calendario per il 31 gennaio, la terza parte della riforma della sanità, che doveva andare in aula il 22 dicembre, si terrà a febbraio, e assieme alle norme per la caccia ai cinghiali e sulla rete escursionistica. Allora, 31 i progetti di legge approvati contro i 45 dell'anno scorso, questi sono numeri, poi adesso non voglio che i consiglieri lombardi, sono i numeri. Tra i quali spicca un provvedimento fondamentale, quello della tutela della lingua lombarda. E vabbò. 20 risoluzioni nel 2016 contro le 27 del 2015, 91 ordini del giorno contro i 101, nessuna proposta di legge al Parlamento, almeno nel 2015 avevano fatta una. No. Allora, ci sono dei fattori esterni, due campagne elettorali che portano a 20 giorni di pausa, e poi più altrettanti prima della consultazione del 4 dicembre, perché per prassi l'Aula sospende i lavori, perché i singoli consiglieri regionali devono andare sul territorio. Vabbè, la Lombardia non è il Guangdong, potevi anche lavorare, ma va bene, la prassi, devi sospendere il lavoro perché devi andare sul territorio, va bene. Faccio notare che il Presidente del Consiglio Maroni, il Presidente della Regione Lombardia Maroni, ha detto, rispondendo ai consiglieri, se il Consiglio non si riunisce non dipende dalla Giunta, se vogliono di lavoro ne hanno. In effetti non è neanche sbagliata come risposta, uno è l'organo di governo, Maroni, l'altro è il parlamentino della Regione Lombardia. Però poi qualcuno ci deve spiegare una cosa, quanto un minuto prima di arrivare alla prima posizione, va bene. Che cavolo ha combinato la regione sulla vendita dello storico palazzo della ASL a Milano in Corso Italia 19? Ora vi spiego la vicenda. Nel 2014 l'edificio, che è un edificio storico, sede dell'azienda sanitaria di Milano dal dopoguerra, viene venduto a 25 milioni di euro. Viene poi rivenduto dal privato che l'ha comprato, dai nuovi proprietari, a 38 milioni sei mesi dopo. Già dici, ma chi ve l'ha fatta la valutazione dell'immobile? Pippo, Pluto e Paperino. Che se solo dopo sei mesi riesce a guadagnare chi lo compra 13 milioni, forse l'hai un po' svenduto. Ma la rassicurazione della direzione della ASL Infrastrutture Lombarde era netta. Avremo in questo modo, con le risorse ottenute, riusciremo a risparmiare costi direttamente più bassi rispetto alla gestione di un edificio che Palazzo Beretta, dove i soffitti sono infiltrati d'acqua, gli uffici in cattive condizioni, i muri si scrostano. Quindi noi incasseremo 25 milioni, ma risparmieremo col cavolo che risparmiano, perché il trasferimento degli uffici deliberato ieri dal Pirellone costa 20 milioni, poi ne escono altri 6 per le spese d'affitto che deve sostenere per restare nello stabile tra il 2015 e il 2019. A casa mia fa 26 milioni. Quindi non sapete valutare un immobile quando lo cedete, e non sapete calcolarne il costo, perché se lo vendi per 25 e spendi 26, te lo dice anche mio figlio, che forse la differenza fa meno 1, ok? Oltre che puoi raccontare anche a chi è andato sto immobile, ma lo farò dopo il GR24. Abbiamo poi il primo posto, poi il caso virtuoso, una startup, e poi anche la vicenda Monte dei Paschi di Siena. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, ultima parte della classifica, oggi veramente lunga, tra le vicende di cronaca, appunto Milano-Roma, e da questo punto di vista anche, un attimo che abbiamo dei problemi di distorsione in cuffia, e anche le vicende che riguardano Milano-Roma, dicevamo Muraro, e adesso sistemiamo il problema delle cuffie, scusatemi solo per il disturbo in onda. Dicevo Muraro e Giunta Raggi, però vorrei concludere sul tema di Palazzo Beretta. Perché? Perché un edificio che viene ceduto per 25 milioni e poi ne costa 26 milioni, è chiaro che è già un fallimento. La cosa interessante è che l'operazione, che fu voluta allora dal direttore generale della ASL Walter Locatelli, in quota Carroccio, ma questo non è il problema. Il problema è che l'acquirente ha potuto rivendere lo stabile a un valore superiore del 52%, è stata la Cassa Depositi e Prestiti che l'ha poi rivenduto. Ma al di là del fatto che già hai sbagliato la valutazione immobiliare, perché se lo vendi a 25 milioni e dopo 6 mesi viene rivenduto a 38, hai fatto un errore al danno della collettività, la ASL deve traslocare in due stabili di proprietà, per Metandra in via Conca del Naviglio 45, l'altra in Corso Italia 52. I servizi che oggi sono ospitati nei due edifici, come il CERT, saranno parzialmente trasferiti a loro volta. Il trasloco è previsto nel giro di 2 anni e mezzo. Nel frattempo l'ASL continuerà a pagare l'affitto in Corso Italia 19, l'immobile che ha venduto a un prezzo a questo punto bassissimo, e continuerà a pagare 1 milione l'anno per il 2015-2016, 1,5 milioni all'anno nel 2017 e 2 milioni a partire dal 2018. Per cui alla fine spenderà 26 milioni per averne intascati 25. Ripeto. Ci arriva anche mio figlio. Ultimo posto della classifica, o meglio, primo posto della classifica, e qui la lista è lunghissima, potrò farla solo brevemente. Andiamo al vincitore. And the winner is... Il vincitore sono le reti dei pendolari della nostra Repubblica. Guardate che i dati sono incredibili, perché esiste un rapporto che fa Legambiente ogni anno che si chiama Pendolaria, sullo stato di salute del trasporto ferroviario pendolare in Italia. Allora, al primo posto i 28 chilometri della Roma Lido, i peggiori di tutta Italia, gestiti da ATAC. Allora, il servizio non è assolutamente adeguato a una domanda di spostamenti che arriva a 100.000 tra studenti e lavoratori, perché poi questa cosa va a colpire le fasce più deboli, chiamiamole così, ma poi lo sono. Tra l'altro c'è un accordo tra Governo e Regione Lazio da 180 milioni di euro per rimettere in sesto la linea. Le carrozze attualmente hanno in media più di 20 anni, le biglietterie sono presenti solo nel 21% dei casi, nel 78% dei casi non vi è la presenza di personale ferroviario o saltuaria, nell'85% dei casi. Sulla Roma Lido i tabelloni elettronici degli orari sono guasti, ma poi adesso non andiamo sui dettagli, ti interessa pure il tabellone orario? E dai, su. Al secondo posto la Circumvesuviana, 142 km, 6 linee, 96 stazioni. Fino al 2003 faceva 500 corsi al giorno, adesso ne fa meno della metà. I treni erano 94 e adesso sono 56, ne occorrerebbero almeno 70. Naturalmente i pendolari della Circumvesuviana sono passati da 40 milioni a 27 milioni. Noi ci siamo occupati della Transvesuviana e in generale dell'ente autonomo Volturno per gli autobus della Polonia, ma non voglio tornare su quella vicenda. Vado al terzo posto, la Taranto-Reggio Calabria, 4 collegamenti al giorno, di cui un solo Intercity. Il treno più veloce il treno più veloce impiega 6 ore e 15 minuti con 3 cambi. Il treno più veloce, mancano solo gli indiani, i bufali. Allora, 3 cambi a Paola, Castiglione, Cosentino e Sibari, dove poi i convogli si fermano e giustamente uno monta sul pullman, perché tu fai tutti questi spostamenti e poi monti sul pullman. Le linee della Taranto-Reggio Calabria furono inaugurate nel 1875 e sono ancora a binario unico e senza elettricità. E chiaramente la linea su gomma viaggia un pochino più veloce, non ci vuole molto, 5 ore e 40 minuti. Al quarto posto, mi fermo col quinto, al quarto posto la Messina-Catania-Siracusa, 180 km, e i treni si sono ridotti di quasi il 50% negli ultimi 15 anni. E poi al quinto posto la maglia nera è la Cremona-Brescia. Sui 51 km di linea i tempi di percorrenza sono aumentati rispetto al passato. Treni che hanno dai 25 ai 30 anni di età. Potrei continuare con la Pescara-Roma, dove i 240 km di collegamento hanno l'ultimo treno alle 17.15, utilissimo per i pendolari di tutto il mondo, no? Perché 17.15 uno mica sta lavorando, ma infatti... E ci mette 5 ore e 21 minuti con 2 calmi, uno a Sulmona e uno a Vezzano. Poi c'è un posto che voglio dare a Casale Monferrato, perché i collegamenti con Vercelli e Mortara, per raggiungere diciamo la prima metà dei collegamenti, fino a pochi anni fa ci volevano 18 minuti, ora 1 ora e 30. Io non so, ma che gli ha messo i piombi? Gli frenano apposta? Guardate che... poi potrà andare avanti con la Taranto, Martina Franca, Bari, che potrebbe servire, secondo uno studio della Regione Puglia, fino a 700.000 persone, ma ci sono solo 4-3 ATR in circolazione, e questo dopo che le ferrovie hanno inglobato la disastrosa Ferrovie del Sud del Sud-Est. Portogruaro Treviso, 10 coppie di treni in parallelo, 10 autobus sostitutivi, bellissima pure questa, e va bene. Comunque il problema è anche del taglio e trasferimenti dello Stato delle regioni e come le regioni poi decidono di utilizzare i loro soldi. La Calabria in 6 anni ha tagliato del 30% i servizi, ma ha aumentato del 20% le tariffe. Con tutto quello che raccontiamo sulla regione Calabria da anni, possibile che non vi fosse altro da tagliare se non i servizi ai pendolari, pur avendo aumentato del 20% le tariffe? Misteri dei bilanci della regione Calabria. In Campania meno 15% i servizi, più 36% le tariffe. In Piemonte meno 8% i servizi resi, più 47% le tariffe. Ma è tutto normale. Un applauso. Allora, il caso virtuoso. Luca Menti, fondatore e amministratore di Viker, immagino. Buonasera. Buonasera. E Viker. Cos'è Viker? Abbiamo creato una piattaforma che mette in contatto tutte le persone che hanno bisogno di un professionista a casa per svolgere dei piccoli lavori domestici con persone che hanno quel tipo di competenze, ovvero il classico idraulico, l'elettricista, e contemporaneamente per tutti quelli che sono i cosiddetti micro job, che solitamente vengono pagati a nero, abbiamo creato un sistema che permette alle persone che magari potrebbero essere anche disoccupate di poter lavorare in regola. E quindi che cosa fa concretamente questa portale? Concretamente, praticamente sul nostro portale è possibile richiedere qualsiasi cosa di cui ho bisogno. Esempio, ho bisogno di una babysitter sabato mattina alle 8 fino alle 11 e metterò l'indirizzo e soprattutto metterò il budget che sono disposto a spendere. Questo farà sì che potrò ricevere le candidature di persone che sono state verificate e selezionate, che si renderanno disponibili a svolgere quel lavoro per me. Quando è che avete lanciato questa piattaforma? Noi abbiamo lanciato la piattaforma in fase di test ad aprile di quest'anno, per poi per poi concludere la fase di test e iniziare realmente con il servizio da più o meno giugno. Ma voi avete un riconoscimento del Ministero, perché non è che uno possa fare questa operazione? Sì, siamo state la prima piattaforma riconosciuta dal Ministero del Lavoro, proprio perché, come dicevo prima, il sistema va a generare tutta la documentazione necessaria per far sì che gli utenti che si iscrivono per poter lavorare con questo servizio possono farlo nel pieno rispetto, insomma, della normativa. Quindi c'è una cifra minima per la prestazione, no? Per evitare, immagino, anche un mercanteggio, un mercato delle vacche, no? Su questo. Beh, sì, allora quello che abbiamo fatto noi è praticamente creare un sistema che sia antitruffa e anti, come si dice, a tutela anche dei lavoratori per evitare il fatto di non essere pagati. Mm. Abbiamo deciso di dare una cifra minima che è di 20 euro, proprio per evitare proprio dei lavori sottopagati. Mm. E in più, con l'utilizzo della chat che è all'interno del sistema, potrò comunicare, cioè gli utenti possono comunicare uno con l'altro e quindi andare ad accordarsi magari per un prezzo qualora l'offerta fosse stata fatta fuori mercato. Senta Menti, ma le garanzie, cioè io per evitare il nero, appunto, deve esserci un pagamento trasparente e qualcuno che assicuri, no? Esatto, allora diciamo che per la legge italiana non è obbligatoria un'assicurazione, ma è proprio quello che abbiamo voluto fare noi. Quindi nel servizio praticamente noi abbiamo aggiunto che tutti gli utenti che si iscrivono per lavorare sono anche coperti da un'assicurazione che abbiamo fatto con Zurich per tutto quello che riguarda gli infortuni. Quindi diciamo che la tutela è proprio quella di dire che se una persona viene a casa mia e fa un lavoro e si fa male, non è responsabilità mia perché ho la garanzia che questa persona sarà assicurata. E in più, oltre a questo, abbiamo creato un sistema di pagamenti totalmente trasparente che funziona praticamente che una volta che ho scelto il mio candidato, e il sistema, cioè quindi Vicker, congela la somma a garanzia di ambedue le parti, la quale verrà data al lavoratore entro 48 ore successive che tutti e due gli attori hanno dato conferma che il lavoro è finito. Questo va a prevenire due cose: va a prevenire intanto un insoluto nei confronti del lavoratore e soprattutto andiamo a prevenire tutto quello che è il lavoro sommerso, perché noi andiamo ad agire proprio anche, cioè una grande fetta del nostro mercato sono proprio i microjob, le ripetizioni, le pulizie, i babysitter. Quindi il fatto che possa pagare o con carta di credito, insomma, sono tracciabili, non ci può essere del nero. Tracciato. Senta, dov'è che siete presenti e quanti sono i dipendenti? Chi vi ha aiutato economicamente? Ad oggi noi abbiamo un team di circa 20 persone e siamo dislocati in 4 uffici in tutta Italia e siamo operativi sulle città di Roma, Milano, Vicenza, Padova, Bologna e Torino. E abbiamo avuto, noi praticamente sia io che Matteo che l'altro socio, non arrivavamo ovviamente dal mondo dell'imprenditoria perché siamo abbastanza giovani. Quanti anni avete? Io ne ho 34, Matteo ne ha 30. E facevamo arte, io volevo fare il cantante nella vita, Matteo il regista, e quindi non sapendo nemmeno le dinamiche di quello che poteva essere l'imprenditoria in Italia, abbiamo fatto diciamo un po' a modo nostro, ovvero non abbiamo guardato la strada, abbiamo guardato solo un obiettivo e questo ci ha permesso di costituire un team fatto di professionisti, arrivando ad essere i primi addirittura ad avere questa approvazione ministeriale. E sollecitando, cioè, e andando a stimolare l'interesse di due investitori privati sul territorio milanese, i quali ci hanno permesso di Le banche vi hanno aiutato? Quanto vi hanno dato gli imprenditori in tutto? In tutto siamo arrivati all'investimento in seed round di 1 milione di euro, che è quello. Le banche no. No, non siamo passati. Senta, fatturate quanto che devo chiudere? E adesso noi, ovviamente, essendo una startup, viviamo ancora dell'investimento, esatto. Abbiamo chiuso le prime 2000 transazioni e quindi noi abbiamo una percentuale che è del 16 più IVA all'interno e fa più o meno l'importo medio di una transazione siamo sui 34-35 euro, quindi più o meno siamo lì. È presto ancora per parlarvi di vivere del nostro fatturato. Vabbè, in bocca al lupo, non capisco. Grazie. La critica di quelli che dicono ma come qui lei fa servizio agli sfruttatori. No, è tutto legale, tutto trasparente, cioè invece che pagare l'idraulico in nero o chiedere una prestazione di micro lavori, appunto, dalla babysitter in nero, lo fai in maniera trasparente, c'è anche un'assicurazione. Non capisco quale sia veramente il problema. È meglio pagare l'idraulico in nero, non lo so, veramente non capisco il problema. Grazie a Luca Menti, in bocca al lupo a lei e ai 20 collaboratori. Andiamo sul traffico e poi Monte dei Paschi di Siena. Focus Economia. Allora, l'applicazione che abbiamo appena presentato si chiama Vicker, alcuni scrivono che l'hanno usata e si sono trovati bene, vabbè, insomma noi portiamo startup di gente che si è rimboccata le maniche per darci un po' di così, un po' di autostima, un po' di iniezione di fiducia dopo la classifica che ogni volta ci sfinisce. Invece Moria Longo, tu non ci sfinirai, buonasera, sole 24 ore. Ma non porto grande fiducia. Non porti, ci devi spiegare esattamente cosa capita adesso ai possessori di obbligazioni subordinate del Monte dei Paschi, visto che la Consob ieri nottata ha dato via libera alla trasformazione su base volontaria in azioni. Visto che ti ho qua, però fammi dare la borsa che ha chiuso in rialzo dello 0,1, oggi giornata poco mossa sugli indici, più 0,2, più 0,3% Parigi, più 0,3% anche Francoforte, più 0,20% Londra, Dow Jones invariato, tra i titoli Ferragamo più 2,90% come Saipem, Unicredit più 2,60% e Steam Electronics più 2%, Telecom più 1,80%, Luxottica perde il 2%, Boots Unice 1,60% come Brembo, Enel perde l'1,30% come Intesa San Paolo e Iux Net-a-Porter. Poi parlerò anche di Etruria e la prossima settimana faremo anche un approfondimento sulla vicenda del mega Panfilo in Etruria. Però detto questo, che cosa capita adesso a chi ha comprato le obbligazioni subordinate? Allora, chi ha le obbligazioni subordinate del Monte Paschi ha la facoltà, quindi ora è solo una facoltà, è volontario, di convertirle in azioni del Monte Paschi fino al 21 dicembre. La Consob ha detto che anche i risparmiatori che hanno un profilo di rischio non adeguato possono volontariamente, quindi non devono essere sollecitati al Monte Paschi, ma possono volontariamente farlo. Cosa significa convertire? Significa che io ho obbligazioni, queste obbligazioni attualmente quotano al 50% del valore originario. Quindi 1000 euro che avessi sottoscritto nel 2008 valgono adesso 500 euro. Esattamente. Io le posso andare in banca, convertirle, nel senso la banca mi dà non i 50 ma mi dà i 100, quindi il totale del mio investimento iniziale del valore del 2008, però non me lo dà in contanti ma me lo dà in nuove azioni, il cui prezzo è ancora non è definito, perché vale nel prospetto c'è scritto che sarà inferiore a quello di borsa, ho capito bene? Sì, il prezzo delle nuove azioni sarà tra un minimo di 1 euro e un massimo di 24,9 euro, quindi cioè, c'è una forchetta che è un forchettone. È il forchettone del papà del gnocco questo. Ecco, però diciamo che qualunque sia il valore delle azioni, io comunque recupererei il 100%, ripeto, però in azioni di una banca che avrà comunque molti problemi anche dopo, perché comunque sebbene verrà pulita dai crediti di sofferenza, potrebbe averne nuovi perché c'è un'ispezione della BCE in corso e quindi una banca comunque che resta comunque un sorvegliato speciale. Due domande. La prima, hanno tempo fino al 21. Ora, io dicevo ieri, o immaginiamo la corsa invece che prendere i regali di Natale per i figli, non è un po' poco il 21? E perché non si è, visto che deve fare l'operazione entro il 31, non si ha più tempo? Seconda domanda, quando e potrebbe intervenire lo Stato invece? Il problema che questo porta, perché un conto è dare il ristoro, cioè conguagliare la perdita a chi le comprò nel 2008 e probabilmente neanche immaginava la rischiosità dell'obbligazione perché la banca era ancora solida, sembrava solida così. Altra cosa è dare un ristoro a chi l'ha comprata in questi ultimi mesi o in quest'ultimo anno, sapendo che, solo per speculare, che quindi ci ha guadagnato e poi gli dai pure il premio. Per cui, allora, prego. Alla prima domanda hai risposto con la seconda, cioè si dà tempo fino al 21, proprio perché siccome la banca va salvata in qualunque caso entro il 31 dicembre, perché quando scatta la notte del 31 dicembre la banca a gennaio andrebbe in bail-in, quindi con perdite molto maggiori per tutti. Allora, l'offerta ai risparmiatori di convertire le obbligazioni termina il 21, proprio perché serve poi il tempo, considerando che ci sono anche le feste natalizie, per lo Stato di varare, di vedere quanti hanno aderito, vedere se l'aumento di capitale si riesce a fare, perché oltre alla conversione c'è anche poi da trovare investitori che portino soldi a Montepaschi per arrivare ai 5 miliardi che servono. Dopodiché, se non si riesce, ed è molto difficile che si riesca, comunque un'operazione veramente complessa, cioè le condizioni sono molto siamo arrivati leggermente all'ultimo minuto, appunto, sì. Proprio per non arrivare all'ultimo mentre tutti stappano le bottiglie di mezzanotte il 31, che lo Stato deve fare un decreto, si fa in modo che il decreto avvenga, se qualora fosse necessario l'intervento dello Stato, tra il 22 e il 23 dicembre, cioè prima di Natale, per cui si termina il 21 con questa offerta, proprio perché serve al governo il tempo materiale per intervenire se l'aumento di capitale non funziona. Ecco, allora mettiamo che chi non ha voluto aderire alla vigilia, mentre sta facendo il presepe, si becca che la conversione obbligatoria, quindi forzosa. Lo Stato dovrà porre una soglia temporale al possesso, immagino. Allora, aspetta, chi non aderisce ha due possibilità. La prima è che tutti gli altri aderiscano e che l'aumento di capitale vada in porto, certo. E quindi chi non ha aderito si tiene le sue obbligazioni vecchie con una banca risanata che potrebbero essere rimborsate nel 2018. Se tutti non aderiscono, l'aumento di capitale non va in porto, si va alla conversione forziosa, molto probabilmente, perché il decreto dello Stato, nessuno lo sa ancora, sì, come lo Stato interverrà. Si, la conversione sarebbe a prezzi molto più bassi di quelli proposti, verosimilmente ai prezzi di mercato, e quindi uno avrebbe comunque azioni come, come adesso in caso di conversione volontaria, però non 100 azioni, non a valore nominale del 100%, ma al 50%. Però anche qui lo Stato poi potrebbe intervenire con un ristoro, ma il ristoro avviene per la normativa europea in base quando c'è stata una vendita impropria di queste obbligazioni. Bisognerà determinare, quindi andranno determinate, capire che tu non sapevi nulla del rischio che ti assumevi. È lo stesso film che abbiamo visto per quattro banche. Etruria, di cui adesso parlo in chiusura. Grazie anche a Moria Longo. E ne parleremo anche la prossima settimana, perché sono 21 gli avvisi di chiusura di indagine notificati a altrettanti ex componenti degli ultimi due consigli di amministrazione di Banca Etruria. Non c'è Pierluigi Boschi, papà dell'ex ministro Boschi. Ne parleremo la settimana prossima, perché nel frattempo emerge una vicenda pazzesca sul Panfilo, sulla società che doveva costruire 6 Panfili, soldi che poi invece vanno all'ex ministro degli esteri del Vaticano, segretario di Stato Bertone. C'è una cosa che veramente... però abbiate pazienza. Intanto l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando, da parte di Sebastiano Barisoni, e un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma e in studio anche questa settimana. Ci risentiamo lunedì. Radio 24, libera la voglia di fare.